Sì, il tempo ci cambia ogni giorno. Se ti guardi intorno, anche il cielo è in movimento e non si ferma mai. Quella zucca sta pian piano ammuffendo, la mia saggia foglia si sta intristendo, ma le tue certezze in fondo tu le hai. Sì, cambia il mondo, ma qualche cosa non cambia mai. Come stare insieme e la gioia che tu mi dai. Come un muro che non può cedere, sappi che prima o poi cambia tutto, ma non l'armonia in cui siamo noi. L'autunno muove le foglie, il futuro è di chi lo coglie. Stai per dirmi che stasera, amico, ti inginocchierai. Io faccio i piani e poi combino un disastro, anelli, cene, balli che impiastro. Ma per imparare queste cose è tardi ormai. Si cambia tutto tranne il gran bene che le vorrò. E per me non cambia quell'idea che da tanto ho. Stare insieme a te è più facile, ma ora farò di più, giusto? Cambia quasi tutto, non l'appoggio che mi dai tu. Che venti inquieti, un dubbio ormai in mente cielo. Quel che mi chiama annuncia cambiamenti ed io non so se sono pronta, lo cristallizzerei. Quel che vedo è proprio perfetto, adesso non lo cambierei. Il tempo trasforma un po' tutto e invecchiare non è affatto brutto. Diciamo grazie al fato per quello che ci dà. Abbonda il cibo per tutti gli amici e noi ci aiutiamo felici. D'ora in poi quella bandiera lì in alto volerà. In alto volerà. In alto volerà. Cambia tutto, ma qualche cosa non cambierà. Passato ormai, resta un ricordo in noi. Cambia tutto, ma il mio posto è accanto a voi. Sempre accanto a voi. Sempre accanto a voi. Sempre accanto a voi. Il mio posto è accanto a voi.